Do il buongiorno a Maria Rosaria Sant'Angelo, grazie per la disponibilità. Grazie a voi, buongiorno. Allora, prima edizione dei Festivalto a Montesole dall'1 al 3 luglio, come è organizzata la programmazione? Saranno 3 giorni di musica, ovviamente concerti la sera, incontri, dibattiti, laboratori, workshop dedicati non solo ai ragazzi, che sono diciamo il centro, il fulcro del nostro progetto, ma aperti a tutti. Quindi parleremo di mobilità sostenibile, parleremo di cittadinanza attiva, di memoria soprattutto visto il luogo nel quale ci troviamo, ci saranno tanti soggetti coinvolti, ci sono molti partner, il progetto è un progetto interregionale che vede l'unione appunto della Emilia Romagna e della Toscana in questo luogo così simbolico, per cui una sorta di cammino interregionale tra le città della memoria oltre ovviamente alle 2 province, Bologna e Pistoia, che sono coinvolte. Quindi noi speriamo davvero che tante persone possano venire, perché è la prima edizione, ma insomma abbiamo lavorato davvero tanto. L'associazione che gestisce il Poggiolo, che è Ozono Factory, è un'associazione giovane ma che ha veramente davvero lavorato molto bene in questi anni a Bologna, perché da anni gestisce il binario 69. Gli altri organizzatori della Limonaia di Fusecchio, quindi la parte toscana anche, insomma hanno una lunga storia. Quindi speriamo che questa fusione di due mondi, di due entità, possa davvero da quest'anno dare l'avvio a un progetto che possa durare negli anni e possa davvero evolversi e ingrandirsi sempre di più. Possiamo dare qualche nome di chi sarà presente al festival? Sì, partiamo dalla musica perché di solito quella è sempre importante. Certo. Inizieremo venerdì sera con dei gruppi veramente importanti, abbiamo Marchi Ramon, che è il batterista dei Ramones, abbiamo gli Studio Murena, gli Spagna Circo Este, proseguiremo poi sabato con Shingai, poi abbiamo Corobus, Aka, I Gomma, Giorgio Canali e forse mi sto dimenticando qualcuno, anche se ormai li recito, però non me ne vorranno, certo. Ma ci potete seguire ovviamente sulle pagine social di Festivalto, sia Instagram che Facebook, poi avremo tanti ospiti alle tavole rotonde, ne abbiamo 3, 2 il sabato, 1 la mattina alle 11, dedicata agli eventi climatici, impatto sociale e mobilità. Avremo con noi il senatore Nencini, gli assessori alla Regione Toscana, abbiamo i presidenti di Lega Ambiente Toscana di Emilia Romagna, Claudia Fiaschi di Fconf Cooperative e veramente tanti altri. In collegamento, perché è partito adesso Appennino Bike Tour, Enrico della Torre di Vivi Appennino, che però insomma ci tiene a collegarsi. Poi una tavola rotonda il pomeriggio sulla cultura con Elena Di Gioia, la delegata della città metropolitana alla cultura di Bologna, e Cristina Giachi invece, che è la presidente della cultura, della commissione cultura del Consiglio regionale della Toscana, Fabio Della Versana di Siedas, Monica Folegatti, un'artista bolognese, Chaos, che è l'artista che farà un intervento site specific proprio a Montesole in questi 3 giorni, e poi altre tavole, la tavola della memoria insomma con il comitato Onoranze, la scuola di pace, tanti rappresentanti di tutti i comuni coinvolti, quindi le città della memoria e anche molte altre. Abbiamo tutti i laboratori e i workshop che sono aperti a tutti, tutto gratuito, ve lo ricordo, ecco, l'accesso gratuito, esatto. Assolutamente tutto gratuito e libero. Sono appunto laboratori sulla bicicletta, mobilità sostenibile, riusami per le creazioni di opere artistiche con materiali da riusare, ciclo, un workshop sulla transizione energetica che terranno le sezioni giovani di Lega Ambiente Toscana ed Emilia Romagna, un altro workshop sulla il riuso e il riciclo che si chiama le 3R, e poi talmente tanti altri eventi. Eventi, sì, una rappresentazione teatrale bellissima il venerdì sera. Veramente faccio fatica davvero a ricordarle, certo, tutte a ricordarli tutti. Abbiamo già detto le pagine social per seguire, sì. Ci sarà anche un sito apposito o possiamo seguire? Per ora abbiamo soltanto le pagine social, perfetto, che sono Instagram e Facebook, Festivalto, Montesole. Grazie mille. Grazie a voi.